Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio ad Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di autotrasporto e logistica. Al momento non c'è ancora nulla di certo, ma stando alle indiscrezioni, la legge di bilancio 2018 escluderebbe i veicoli industriali tra i beni strumentali per i quali è previsto il superammortamento, cioè un'agevolazione fiscale per favorire gli investimenti delle imprese. Di fronte a questa eventualità, le associazioni dell'autotrasporto e UNRAE, l'Unione dei Costruttori Esteri, hanno fatto fronte comune chiedendo al governo di tornare sui propri passi. In ballo, come è stato spiegato in un comunicato congiunto, c'è il processo di rinnovo delle flotte avviato negli ultimi anni e ritenuto indispensabile per un sistema di trasporti più efficiente, sostenibile e sicuro. E proprio grazie al superammortamento nel 2016 e per la prima parte del 2017 il mercato dei veicoli industriali aveva subito un'impennata, risollevandosi così dal baratro degli anni della crisi. Tra le associazioni che hanno aderito all'appello per il ripristino dell'agevolazione fiscale c'è Anita. Al nostro microfono il presidente Thomas Baumgartner. Il ministro stesso dei trasporti ha sempre insistito sulla politica dei trasporti che va verso maggiore sicurezza stradale e verso minore impatto ambientale. Ricordiamo la cura del ferro, la cura del mare, contributi che vengono dati per investimenti per rinnovare il parco automezzo, sia per avere mezzi più ecologici ma anche mezzi più sicuri per la strada. Perciò ci sono questi due obiettivi primari, cioè riduzione dell'incidentalità e migliore impatto ambientale. Perciò il rinnovo del parco automezzi italiano è una cosa di importanza primaria. Abbiamo tuttora oltre il 70% di mezzi che non sono ancora con i nuovi standard degli Euro 6 o Euro 5, e per questo riteniamo assolutamente necessario che venga mantenuto il superammortamento. No? Trasporti meno impattanti significa quindi alimentazioni alternative e carburanti più virtuosi. Un quadro della mobilità sostenibile è stato delineato da Oil e Non Oil, la manifestazione organizzata da Verona Fiere che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Roma. Per quanto riguarda il metano, è stato ipotizzato che entro il 2040 saranno attivi 4.000 impianti di distribuzione in grado di alimentare un parco circolante di 10 milioni di veicoli. Per il GNL, il gas naturale liquido, nel 2030 la rete di distribuzione conterà 800 stazioni con una domanda annua di 2,5 milioni di tonnellate, sufficiente per rifornire una flotta di 30.000 mezzi pesanti. I lavoratori della logistica, dell'autotrasporto e delle spedizioni si fermeranno il 27, il 30 e il 31 ottobre. L'agitazione è stata indetta dai sindacati confederali dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. Secondo Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti, lo sciopero è necessario per garantire l'unicità del contratto nazionale e sostenere, a quasi due anni dalla scadenza, un rapido ed indifferibile rinnovo. Il Mare Bonus è uno degli incentivi varati nel 2015 dal governo per incrementare i trasporti intermodali nel segno appunto della sostenibilità. Si concretizza in un contributo a favore degli autotrasportatori che lasciano la strada e si imbarcano sulle navi a bordo delle quali coprono buona parte del loro viaggio. Il Mare Bonus, è il caso di dire, finora ha navigato in acque agitate. Prima si era dovuto attendere il parere di Bruxelles e sulla base delle osservazioni espresse dalla Commissione europea si è giunti alla formulazione delle modalità di applicazione che alla vigilia del varo del decreto avevano posto forti dubbi interpretativi. Gli armatori avevano giudicato alcune condizioni prospettate insostenibili al punto da ritenere a rischio l'applicazione degli incentivi. A giorni il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Come assicura al nostro microfono il presidente di Rete Autostrade Mediterranee, Ennio Cascetta, ogni ostacolo sarebbe stato superato. Ascoltiamolo. Mare Bonus è in via di pubblicazione, veramente insomma, si è fatto di tutto, 128 milioni di euro, 17 e 18. Ma questi problemi interpretativi? Risolti, ormai ripeto, il bando è stato già approvato e firmato dal Ministro dell'Economia e dal Ministro dei Trasporti, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi nel giro di giorni dovremo avere la pubblicazione di questo bando e dentro l'anno vogliamo assegnare una prima quota importante di questi 128 milioni di euro che puntano a rilanciare le autostrade del mare, che è una modalità di trasporto sostenibile che noi ovviamente supportiamo nell'ambito del quadro generale di connettere l'Italia e, ripeto, una modalità di trasporto che sta facendo registrare tassi di crescita a due cifre anno su anno, quindi va e deve andare ancora meglio. È invece già operativo l'altro incentivo per l'intermodalità, il ferro bonus. A questo proposito, il Ministero dei Trasporti ha prorogato al 20 ottobre, quindi a venerdì prossimo, il termine per la presentazione delle domande attraverso le quali le imprese possono richiedere il contributo relativo appunto ai trasporti combinati strada-rotaia. E a proposito di rotaie, la linea europea sulla quale nelle ultime settimane si sono concentrate le attenzioni della cronaca è il corridoio TEN-T Reno-Alpi tra i porti del nord Europa e quelli liguri. La linea ferroviaria, vi abbiamo tenuti aggiornati, era rimasta interrotta per 50 giorni a causa di uno smottamento. Dal 2 ottobre è stata riaperta e lungo questo corridoio l'opera strategica più importante in costruzione è il terzo valico dei Giovi tra Genova e la pianura padana. Secondo gli ultimi annunci, il terzo valico sarà pronto entro la fine del 2022. Questo termine sarà rispettato? Lo abbiamo chiesto a Maurizio Gentile, amministratore delegato di RFI, con il quale abbiamo fatto anche il punto sugli altri interventi da realizzare sul corridoio Reno-Alpi. Il terzo valico dei Giovi era programmato al 2021, abbiamo ovviamente riaggiornato il calendario per le vicende che lo hanno interessato, al 2022 la pianificazione è stata confermata anche dall'amministratore straordinario che è stato nominato per gestire il consorzio, quindi ritengo che non ci sono problemi. L'opera è finanziata per 4 miliardi di euro su 6 miliardi di costo complessivo. I lavori vanno avanti, sono stati riappaltati quelli che erano stati revocati alle imprese precedenti, quindi credo che siamo sulla strada giusta. E poi bisogna quadruplicare anche sulla pianura, no? Assolutamente sì, fare quattro binari da Genova, di cui due veloci, che collegano il porto di Genova con la Lombardia e poi a sua volta con l'Europa, è evidente, bisogna far sì che questo sia compatibile anche con il trasporto regionale, che è comunque importantissimo in una regione come la Lombardia, quindi sicuramente il quadruplicamento fino a Pavia è già in programma. Dalle rotaie alle strade, negli ultimi 10 anni, dal 2007 al 2016, sulle autostrade il numero di incidenti che hanno visto coinvolti veicoli pesanti è passato da 2091 a 1313, con un calo del 37,2%, ed è diminuito del 32,2% il numero delle persone coinvolte. Il focus statistico è stato elaborato dal Centro Ricerche Continental Autocarro su dati forniti da ISCAT. E sempre sul fronte della sicurezza stradale, a Marcianise, in provincia di Caserta, nelle scorse settimane, ANAS e AIPCR, l'Associazione Internazionale Permanente dei Congressi della Strada, con il supporto dell'Associazione Mondiale della Strada, hanno allestito il Road Safety Park. È stata l'occasione per presentare alcune innovazioni tecnologiche concepite per limitare il rischio di incidenti, ma sentiamo quali sono da Domenico Crocco, segretario generale di AIPCR. Il dispositivo ANAS sulla barriera di protezione autostradale è una nuova barriera in acciaio che è senza interruzioni e quindi offre una maggiore protezione per tutti i veicoli al momento di un eventuale impatto. Per quanto riguarda il dispositivo contro la guida contromano, è un dispositivo che consente di allestare l'autorità responsabile della strada, il gestore autostradale, qualora un veicolo si sia inserito impropriamente nella corsia di marcia. Per quanto riguarda invece il dispositivo contro la distrazione, si tratta di un dispositivo che si posiziona intorno all'orecchio e che, qualora l'automobilista stia facendo un movimento non consentito, lancia un segnale sonoro e di vibrazione che consente all'autista di riprendere il controllo dell'automobile. Dovranno essere omologati e diventeranno quanto prima prodotti industriali. Entro il 2019 sulle strade europee vedremo veicoli collegati alle infrastrutture che interagiscono tra loro. Lo ha annunciato il commissario europeo ai trasporti Violetta Bulke in un videomessaggio inviato alla conferenza internazionale sulla guida connessa e automatica organizzata a Roma da ANAS. La strategia europea, che prevede un nuovo quadro normativo a livello comunitario entro il 2018, ha spiegato Bulke, creerà condizioni necessarie per la comunicazione tra i veicoli e l'infrastruttura, rendendo le nostre strade più sicure, riducendo il consumo di energia e sul lungo termine integrando i veicoli automatizzati nel sistema di trasporto. L'ultimo flash dall'estero: nel forum di Conftrasporto organizzato la scorsa settimana a Cernobbio era stato posto l'accento sull'invasione dei tir dell'est lungo le nostre strade. Secondo i dati elaborati da un istituto di statistica di Bucarest, in Romania la logistica cresce e vale circa 10 miliardi all'anno. Per oltre tre quarti, il 77,3%, i fatturati sono generati dall'attività di autotrasporto. Le imprese sono 34.000 e in 10 anni sono cresciute di quasi il 20%. Con hashtag autotrasporti oggi mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi ricordo l'appuntamento del sabato con Container, l'approfondimento su questi temi curato da Massimo De Donato. Da Andrea Ferro grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.